viviamo un Mediterraneo. Che cosa dobbiamo fare? Sbarchi clandestini, un fatto normale, viviamo qui. Una terrazza sul mare, viviamo qui. Mediterraneo per noi. Mediterraneo. Noi vogliamo soltanto volare sul mare, stendere al vento di sole le nostre camicie bagnate. Viviamo qui, terrazza sul mare, viviamo qui, Mediterraneo. Barriere, studenti senza quartiere, mutande senza padroni, viti di pressioni, viviamo qui, una terrazza sul mare, viviamo qui, Mediterraneo. Mediterraneo, che cosa dobbiamo fare? Sbarchi clandestini, un fatto normale, viviamo qui, una terrazza sul mare, viviamo qui, Mediterraneo. Mm-hmm.